Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Scusate, ma ho il teletrasporto che non funziona. 22:31 minuti, ora italiana. Sto cercando di salire a bordo dell'astronave Enterprise, non riesco, provo ancora con il teletrasporto, scusate. Come si suol dire, la terza volta è quella positiva. Finalmente ce l'ho fatta salire a bordo dell'astronave Enterprise. Avevo qualche piccolo problema e niente, sono riuscito finalmente a ritornare a bordo. Al microfono, come di consueto, il vostro amico Andrea. In regia abbiamo Spack e Dottor McCoy, che preparano insomma il tutto, la scaletta di questa sera, puntata speciale dedicata a San Giuseppe. Anzi, approfittiamo per fare gli auguri a tutti i Giuseppe all'ascolto. E oggi è anche la festa del papà, quindi un augurone a tutti i papà all'ascolto di Star Trek Viaggio nella storia della musica. Strano, c'è già il teletrasporto, ma ci sarà qualcuno, vediamo un po' chi c'è, chi sta salendo a bordo dell'astronave Enterprise, vediamo un po' chi sta salendo a bordo, chi è che c'è? Sì? Ciao, bella gioia! Ok, noi ospitiamo questi personaggi assurdi e ringraziamo anche... Questo era il Gandhi, l'ho riconosciuto. Della voce mi sembrava proprio il Gandhi, mi sembrava. Non vorrei sbagliarmi, Però della Ciao, bella voce... gioia! Sì, no, è lui. È lui. Ringraziamo il Gandhi per essere salito a bordo dell'astronave Enterprise. E riepiloghiamo un po' il tutto, cos'è che ascolterete questa sera. Ascolterete principalmente musica e poi... A bordo dell'astronave Enterprise capiterà di tutto, come avete sentito ci sono tutti i vari personaggi che ci vengono a salutare, abbiamo appena ospitato il Gandhi e niente, tramite il teletrasporto si teletrasportano sull'Enterprise e magari ci salutano, ci mandano un saluto. Trasmissione che andava in onda nel 1999 su Radio Inchieste Vigevano viene riproposta per questo 2016 sul web. Semplicemente sul web, sempre con lo stesso conduttore Andrea e sempre con il mio sito internet www.andreamangiarotti.com. se avete, non so, magari piacere o avete voglia di venirci a trovare o direttamente dal sito internet, oppure c'è anche qua la chat di Spreaker Radio dove potete interagire con il sottoscritto. Vanno bene insomma i commenti favorevoli, però se avete delle critiche, non so, se avete qualche vaffa da mandare, spero non è sottoscritto. Vabbè, se avete delle critiche costruttive vi invito a farle. Prima canzone meravigliosa e su questo brano mi sembra doveroso salutare un caro amico. Senti qualche giro di basso molto house. Volevo mandare un caro saluto ad un amico che apprezza questo sound, un mio compagno di avventure nelle discoteche del Nord Italia, Tanti tanti anni fa, sono già passati 10 anni quando insomma si andava a ballare insieme. Ti mando un caro saluto se magari sei ancora all'ascolto. Primo pezzo che apre ufficialmente Star Trek. Veramente bello. Qua siamo nel 2001. Siamo nel 2001 con il teletrasporto. Ciao bella gioia! Ciao bella gioia! Ecco, questo brano mi sento veramente Maranza al punto giusto. Feeling Love. Soul Searcher. Se è giusto, scusate il pessimo inglese, ma è scritto veramente piccolo nel mixer virtuale, però vabbè dai. 2001. Grande discone che lo dedichiamo a tutti gli amici e tutte le amiche che vanno a ballare in discoteca, è pur sempre sabato oggi, anche se è festa, comunque è sempre sabato, sabato di San Giuseppe. Mi raccomando, sempre massima prudenza sulle strade, andate piano se andate a ballare, come spesso dico. Ok, la musica manetta, ok, divertimento, però non sballatevi troppo, magari con sostanze insomma non lecite, eccetera eccetera, perché poi insomma purtroppo si sentono sempre incidenti, eccetera eccetera. Divertitevi con gusto con la musica. Salutiamo tutti gli amici che ci ascolteranno anche in versione podcast, questa è la diretta del sabato, sono le 22:39 minuti primi, siete a bordo dell'astronave Enterprise con il vostro capitano Andrea. Yeah. Al di là del vetro abbiamo Spock e il dottor McCoy che insomma stanno mettendo su della bella musica questa sera, il primo pezzo dedicato a questo mio caro amico della provincia di Piacenza, insomma un appassionato di musica house, spero avrà apprezzato la canzone, scusate, pezzato un po' diverso, va bene. Allora, se qualcuno vuole salire a bordo dell'astronave Enterprise, non siamo qui, non scappiamo. Ecco. Come nomini, appunto, salire a bordo dell'astronave Enterprise, arriva sempre qualcuno. Vediamo un po' chi è che è salito ora sulla nave. Sì. Tarapia Tapioco! Ah. Prematurata la supercazzola o scherziamo? No, dai ragazzi, per piacere. No, è un grande onore aver ospitato a bordo dell'astronave Enterprise il mitico Conte Mascetti. L'avrete riconosciuto tutti, il grandissimo Ugo Tognazzi, che appunto il 23 di marzo compierà gli anni, così da lassù ci guarda, ci sorride, e noi l'abbiamo voluto proprio ricordare con una sua interpretazione indimenticabile, meravigliosa, una sua maschera immensa. Sto parlando appunto del Conte Mascetti, del film Amici miei di Mario Monicelli, capolavoro assoluto della musica italiana, no scusate, della cinematografia italiana. Mi sono confuso perché ora arriva proprio un brano di musica italiana, Brusco, con Ti penso sempre, una canzone che quando uscì fece un discreto successo. Noi la riascoltiamo questa sera qua a Star Trek, Brusco. Per me è un'agonia, sì mi diverto e sto in compagnia, ma senza te non c'è fantasia. Mi hai detto seguimi fino in Turchia, mi hai detto seguimi in Tunisia, lo so però ho fatto di testa mia, ora ti troverò dovunque tu sia. Dove sei? Ho sbagliato amore, ok, ma fino in capo al mondo andrei, per te non sai cosa farei. Ciao bella gioia! Ti chiamo e non rispondi mai, se un giorno me lo chiederai, arriverò fino alle Hawaii. Sì, sì! Ti penso sempre, sei nella mia mente, ti vorrei con me. Arriverò! Ti penso sempre, qui c'è tanta gente, ma anche solo te. Ma ci sarò! Ti penso sempre, l'acqua è trasparente, tu fatti con me. Ce la farò! Ho chiamato una tua amica, ora so che sei finita al mare in Costa Rica. Vabbè che vuoi che dica, rischierò la vita, io partirò, volerò, incrocerò le dita. Mi scusi signorita che ha visto questa cica, ti cerco nell'albergo, sì ma lì non ci sei mica. Non ci posso credere che ho fatto sta fatica inutilmente, per niente, guarda te che sfiga. Via, torno in Italia, a casa mia, non amerò mai più alla follia, nessuno al mondo, chiunque essa sia, non ho più un euro e non ho energia, neanche lo stereo mi fa compagnia, arrivo a piedi fino alla mia via, apro la porta di casa e magia, trovo lei, la sola cosa che vorrei, e continui con me, resta con me. Canzone meravigliosa di Brusco, uscita un po' di anni fa, non ricordo di precisione l'anno, però canzoncina molto molto allegra. Ora attivo un attimo il teletrasporto perché vi devo dire una cosa molto importante, non tanto io ma questo bellissimo spot Onlus, uno spot no profit. Io mi catapulto immediatamente su questo pianeta e vi lascio in compagnia di questo spot molto molto interessante. Ci vediamo tra poco.